le stesse di qualche anno fa. La gente è diversa ma solo divisi, e quanti nemici ci guardano furiosi. Pulla come nei cari rabbiosi, ma sono fantasmi sul nostro cammino. Non sento più le loro voci. E sembra mille colombe in volo, mentre arrivano aquile d'oro, che gridano il passo a cento ragazzi, che gridano forte in coro. Lotta e vittoria, questo è il giorno di gloria. Lotta e vittoria, subito! Victoria!